ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Quindicesima puntata. Una notte mi fermo a dormire con alcuni ufficiali del Valchiese. Entro nell'isba, parlo bresciano e gli dico che sono del loro battaglione. Mi accettano nella loro compagnia. Accendo il fuoco nel forno e un soldato porta dentro una capra. L'ammazzo e la faccio a pezzi per arrostirla nel forno. Troviamo anche un po' di sale. Faccio le razioni e mangiamo tutti lì dentro. Saremo una quindicina. Gli altri, a vedermi così intraprendente e pratico, mi prendono in simpatia, ma faccio tutto come un automa. Trovo anche della paglia e dopo aver mangiato la capra ci addormentiamo al caldo. La mattina mi sveglio per primo ed è ancora buio. Sveglia, dico, dobbiamo partire, sennò rimaniamo gli ultimi. Ma non si vogliono alzare, vogliono dormire ancora. Esco solo e cammino nella colonna che si è già avviata. Un pomeriggio si arriva in un villaggio. La colonna è avanti, sono tra gli ultimi. Da una mucila vedo la colonna che avanza a zigzag per la steppa e poi degli aeroplani che sorvolano e mitragliano. Nel villaggio vi sono gruppetti di due o tre persone che vanno per le isbe in cerca di cibo. Nella piazza vi sono dei colombi. Penso di sparare a uno e poi mangiarlo. Levo dalla spalla il moschetto, abbasso la sicura e miro da 20 passi. Il colombo s'alza per volare e allora sparo. Quello cade giù, fulminato, senza battere le ali. Di essere un discreto tiratore lo sapevo, ma non sino al punto di colpire un colombo al salto con un fucile a pallottola. Mi stupisco. Certo è stato un caso. Mi riprendo un po' e sorrido di soddisfazione. Un vecchio russo che mi osserva da poco lontano si avvicina ed esprime la sua meraviglia. Scuote la testa incredulo e indica il colombo morto. Poi lo prende in mano, osserva il foro della pallottola che lo ha passato da parte a parte e conta i passi da dove ho sparato. Mi dà il colombo e mi stringe la mano. Mi commuovo un poco. È un vecchio cacciatore come lo zio Jeroška. Entro in un'isba per cucinare il colombo e levo la gavetta che porto infilata nella cinghia delle giberne. Lì vi sono due soldati italiani, ma nessun borghese. Più tardi entrano degli ufficiali giovani e disarmati. Dopo aver mangiato il colombo faccio per riprendere il moschetto che avevo appoggiato al muro, ma non lo trovo più. Mio vecchio moschetto di tante battaglie, che funzionava così bene, che sparava così bene, che avevo così caro. Chi me lo aveva preso? Gli ufficiali non c'erano più, non posso dire che me l'avessero preso loro, ma lo penso. Rimasi male, veramente male. Ora che si era sfuggiti all'accerchiamento, i disarmati, ed erano i più, cercavano di prendere le armi a quelli che le avevano tenute fino ad allora. Non volevo né potevo ritornare dai miei compagni disarmato. Avevo buttato l'elmetto, la maschera antigas, lo zaino, bruciate le scarpe, persi i guanti, ma il mio vecchio moschetto l'avevo sempre tenuto con me. Avevo ancora i caricatori e le bombe a mano. Nell'isba c'era un fucile pesante, rozzo. Presi quello. Le cartucce andavano bene. Quando uscii, sentii degli spari vicino al paese, delle grida. Erano partigiani o soldati regolari che attaccavano gli ultimi sbandati della colonna. Per non rimanere prigioniero, corsi in fretta, come potevo, tra gli orti e le isbe dietro gli steccati e poi nella steppa, finché raggiunsi la colonna. La piaga del piede si era fatta purulenta e puzzava. Camminando, sentivo l'odore e la calza si era attaccata. Mi faceva male. Era come se uno mi avesse piantato i denti nel piede e non mollasse. Le ginocchia scricchiolavano a ogni passo, facevano cric, crac, cric, crac. Camminavo con passo regolare, ma ero lento. E anche sforzandomi non ero capace di tenere un'andatura più svelta. In un orto avevo preso un bastone e mi appoggiavo a quello. Un'altra notte mi fermai in un'isba, dove c'era un tenente medico servito da una guardia ucraina. Uno di quei borghesi con la fascia bianca sul braccio che facevano servizio per le truppe di occupazione. L'ucraino preparò la minestra di miglio e latte, me ne diede un piatto. Era proprio buona. Mi levai gli stracci e le scarpe bucate. Le calze erano attaccate alla piaga, l'odore di marcio era proprio fetido. Attorno alla piaga la carne era bianchiccia, sporca di un umore giallo. Lavai con acqua e sale, fasciai con un pezzo di tela, rimisi le calze, i resti delle scarpe, gli stracci e legai con un filo di ferro. In quel villaggio la sera prima avevo incontrato Renzo. «Come va, paesano?» gli chiesi. «Va bene», rispose. «Va bene. Guarda, io sono in quell'isba. Domani ripartiremo assieme». E corse via. Lo rividi in Italia. Ero solo, non cercavo nessuno. Volevo restare solo. Nell'isba poi venne a bussare un tedesco. Vidi che non era uno dei soliti. Entrò da noi e mangiò con noi. Dopo, seduto sulla panca, levò dal portafogli le fotografie. «Questa è mia moglie», disse. «E questa è mia figlia». La moglie era giovane e la figlia era bambina. «E questa è la mia casa», disse poi. Era una casa della Baviera, tra gli abeti, in un piccolo paese. Camminai ancora un altro giorno con il passo del vecchio viandante appoggiandomi al bastone. Per delle ore mi sorprendevo a ripetere: «Adesso è nell'ora della nostra morte», e questo pensiero mi ritmava il passo. Lungo la pista si incontravano spesso delle carogne di mulo. Un giorno stavo tagliandomi un pezzo di carne da una carogna quando mi sentii chiamare. Era un caporal maggiore del battaglione Verona, che avevo avuto per allievo a un corso Rocciatori nel Piemonte. Mi chiama e vedo che è contento di incontrarmi. «Vuoi che camminiamo insieme?» dice. «Per me, andiamo», dico. Due o tre giorni camminai con lui. Al corso Rocciatori lo chiamavano Romeo, perché una notte era andato a trovare una pastora scalando la finestra. Era proficuo il corso Rocciatori. Romeo e lei Giulietta. Era recluta e lo canzonavamo per questo. Un'altra sera, che eravamo in un rifugio tra i ghiacciai, scese al paese per trovarla e camminò tutta la notte. La mattina dopo c'era da scalare una vetta ed era stanco, ma il tenente Suitner lo caricò bene di corde e di attrezzi. Ora qui in Russia avevo sentito dire che era un caporal maggiore tra i migliori del Verona. Camminando, parlavo poco con lui, ma la sera, quando si arrivava nelle isbe, ci aiutavamo scambievolmente per preparare qualcosa da mangiare e la paglia per dormire. Il sole incominciava a farsi sentire. Le giornate si erano allungate. Si camminava in una vallata lungo il corso di un fiume. Si sentiva dire che ormai eravamo fuori dalla sacca e che un giorno o l'altro saremmo entrati nelle linee tedesche. Quelli che si erano attardati alla fine della colonna dicevano che i soldati russi, i carri armati, i partigiani ogni tanto tagliavano la coda e facevano dei prigionieri. Al passaggio di una balca, era un giorno delle slitte di feriti bloccate nella neve. Romeo e io si camminava fuori dalla pista per conto nostro. Il conducente e i feriti di una slitta chiedevano aiuto. C'era tanta gente lì attorno, ma mi pareva che si rivolgessero proprio a noi. Mi fermai, mi guardai un po' indietro e ripresi a camminare. Dopo, girandomi ancora, vidi che le slitte si erano mosse. Ero solo, non cercavo nessuno, non volevo niente. Un giorno passiamo per un villaggio. C'è ancora il sole alto. Dalle finestre di un'isba delle donne battono sui vetri e ci fanno cenno di entrare. «Entriamo?» domanda il mio compagno. «Entriamo», dico. L'isba è bella, con tendine ricamate alle finestre e le icone adornate con fiori di carta. Tutto è pulito e caldo. Le donne fanno bollire due galline per noi. Ci danno da bere il brodo e mangiare la carne con patate lessate. Dopo ci preparano da dormire. Verso sera entrarono anche dei sottufficiali dell'Edolo. Chiedo a loro di Raul, così per chiedere, perché vedo dalla nappina che sono del suo battaglione. «È morto», mi rispondono. «È morto Nikolaevka. Andava all'assalto su un carro armato e saltando a terra si prese una raffica». Io non dico nulla. Quando la mattina devo muovere i primi passi sono costretto a fare piano. Cric, crac, mi fanno le ginocchia. Piano, piano, fino a che si riscaldano e poi continuare il cammino appoggiandomi al bastone. Il mio compagno ha pazienza e viene con me silenzioso, come due vecchi viandanti che si sono messi insieme senza conoscersi. Nella colonna si sente sovente imprecare e litigare. Siamo diventati irascibili, nervosi. Per una cosa da nulla si trova da dire. Un giorno entriamo in una capanna. Abbiamo sentito lì dentro cantare un gallo. Ci sono molte galline, ne prendiamo una per ciascuno. Camminando le spegniamo per mangiarle alla sera. Un aeroplano tedesco ci cogna e è atterrato vicino alla colonna. Vengono caricati dei feriti. Tra qualche ora quelli saranno all'ospedale. Ma non mi importa niente di nulla. Incontriamo dei soldati tedeschi che non erano con noi nella sacca. Sono di un caposaldo e ci aspettavano. Sono lindi e ordinati. Un ufficiale di questi osserva l'orizzonte attorno con il binocolo. Siamo fuori, tento di pensare. Ma non provo nessuna emozione, nemmeno quando troviamo delle tabelle segnavia scritte in tedesco. Al lato della pista si è fermato un generale. È Naschi, il comandante del corpo d'armata alpino. Sì, è proprio lui che con la mano all'attesa del cappello ci saluta mentre passiamo. Noi, banda di straccioni, passiamo davanti a quel vecchio dai baffi grigi, stracciati, sporchi, barbe lunghe, molti senza scarpe, congelati, feriti. Quel vecchio col cappello d'alpino ci saluta e mi sembra di rivedere mio nonno. Sono camion italiani quelli laggiù. Sono i nostri Fiat, i nostri bianchi. Siamo fuori. È finita. Ci sono venuti incontro per caricare i feriti e i congelati o chiunque voglia saltarci sopra. Guardo i camion e passo oltre. La mia piaga puzza, le ginocchia mi dolgono, ma continuo a camminare sulla neve. Delle tabelle indicano sesto alpini, quinto alpini, secondo artiglieria alpina, battaglione Verona, e il mio compagno se ne va senza che me ne accorga. Battaglione Tirano, battaglione Edolo, gruppo Valcamonica, e la colonna si assottiglia. Sesto alpini, battaglione Vestone, indica una freccia. Sono del sesto alpini io, del battaglione Vestone. Avanti per di qua allora. Vestone, Vestone, il Vestù. I miei compagni, sergente Maggiù, arriveremo a Baita. Sono a Baita. Adesso è nell'ora della nostra morte. Vecio! Ciao, Vecio! Ma chi è quello? Sì, è Bracchi. Mi viene incontro. Mi batte una mano sulla spalla. Si è lavato, si è fatto la barba. Vai laggiù, Vecio. In quelle isbe troverai la tua compagnia. Guardo e non dico niente. Lentamente, sempre più lentamente, vado laggiù, dove sono quelle isbe. Sono tre. Nella prima vi sono i conducenti con i sette muli. Nella seconda la compagnia e nella terza un'altra compagnia. Apro la porta. Nella prima stanza vi sono dei soldati che si stanno radendo e pulendo. Mi guardo attorno e gli altri dico: sergente Maggiù, sergente Maggiù, è arrivato anche Rigoni, gridano. E gli altri, ripeto, c'è Turn e Bodei, Antonelli e Tardivel, visi che avevo dimenticato. Allora è finita, dico. Sono contenti di rivedermi e qualcosa dentro di me si muove, ma lontano, come una bolla d'aria che viene dagli abissi del mare. Vieni, dice Antonelli, e mi accompagna nell'altra stanza, dove c'è un ufficiale che era la compagnia comando. È lui che comanda la compagnia, dice Antonelli. C'è anche il furiere e su un pezzo di carta annota il mio nome. Sei il 27esimo, dice. È stanco, Rigoni? Mi chiede il tenente. Se vuole riposare, si accomodi in qualche modo. Mi butto sotto il tavolo che è appoggiato a una parete e sto lì, rannicchiato. Tutto il giorno e tutta la notte seguente sto lì, sotto, ad ascoltare le voci dei miei compagni, a vedere i piedi che si muovono sulla terra battuta del pavimento. Alla mattina esco fuori e Turn mi porta un po' di caffè nel coperchio della gavetta. Come va, sergente Maggiù? Oh, Turn, Vecio, sei tu, vero? E gli altri? Dico. Sono qui, dice, vieni. Il plotone, il nostro plotone pesante. Dove sono? Vieni, sergente Maggiù. Chiamo vicino a me. Antonelli, Bodei e qualche altro. Giuanin, chiedo, dov'è Giuanin? Non mi dicono niente. Che arriveremo a Baita. Di nuovo domando di Giuanin. È morto, mi dice Bodei. Ecco il suo portafogli. E gli altri? Chiedo. Siamo in sette con te, dice Antonelli. in 7 con te del plotone pesante. E quella recluta, e mi indica Bosio, ha una gamba spezzata. E tu, Turn, mostrami la mano, dico. Turn mi stende la mano aperta. Vedi, dice, è guarita, vedi come la cicatrice è sana. Se vuoi farti la barba, vado a scaldarti dell'acqua, dice Bodei. Ma non importa, perché, rispondo. Puzzi, mi dice Antonelli. Qualcuno mi mette in mano un rasoio di sicurezza e un piccolo specchio. Guardo queste cose nelle mie mani, poi mi guardo nello specchio. E questo sarei io, Rigoni Mario di Giobatta, numero 15454 di matricola, sergente maggiore del 6° reggimento alpini, battaglione Vestone, 55esima compagnia, plotone mitraglieri. Una crosta di terra sul viso, la barba come fili di paglia, i baffi sporchi di mucco, gli occhi gialli, i capelli incollati sulla testa dal passamontagna, un pidocchio che cammina sul collo. Mi sorrido. Bodei mi dà un paio di forbici. Mi taglio con queste il più della barba, poi mi lavo. L'acqua viene giù del colore della terra. Con il rasoio di sicurezza, piano, perché chissà quante barbe come la mia ha tagliato questa lametta, incomincio a radermi. Mi lascio la barba sul mento e i baffi come una volta. Poi ritorno a lavarmi e i miei compagni mi guardano come sto uscendo dal bozzolo. Turn mi passa un pettine. Ah, ahi, come fa male a pettinarsi. Puzzi ancora, dice Antonelli. È il piede, dico, è il piede. Avete un po' di sale? Anche il sale c'è, dice Bodei, e fa bollire un po' di acqua e sale. Sei congelato? Mi chiedono. Mi levo gli ultimi pezzi delle scarpe e gli stracci. Che odore. Sembra che sulla piaga vi siano dei vermi, tanto è putrida e schifosa. Con l'acqua e sale mi lavo per bene, mi lavo anche i piedi. Antonelli ha anche un pezzo di garza rimastagli dal pacchetto di medicazione e mi fascio. Infine, ritorno sotto il tavolo e rimango lì, a fissare la parete dell'isba. 3 giorni siamo rimasti lì. In quei 3 giorni arrivò ancora qualche ritardatario. Ormai era finita. Il sergente Furiere, congelato, partì il giorno dopo il mio arrivo per l'ospedale. Più nessun ufficiale della compagnia era rimasto. Moscioni, Cenci, Pendoli, Signorini. Più nessuno. E neanche sottufficiali, tranne il sottotenente e il sergente maggiore dei conducenti. Bosio, la recluta della vecchia squadra di Moreschi, quello che aveva la gamba ferita, lo accompagnai personalmente con un mulo e lo caricai su un camion che sgomberava i feriti. Era un altro alpino del 3° plotone, fucilieri, paesano di Turn, che aveva un fazzoletto attorno alla testa. «Che hai lì?» gli chiesi. Si levò il fazzoletto e vidi che era senza un occhio. Al suo posto restava un buco rosso. «È guarito ormai», disse. «Vengo in Italia con voi». Uno di quei giorni morì il nostro colonnello Signorini. Dissero che dopo aver tenuto rapporto ai comandanti di battaglione e udito quel che rimaneva del suo reggimento, si sia ritirato in una stanza dell'isba dove alloggiava e sia morto di crepacuore. Mi ricordai che un giorno, prima di andare al caposaldo sul Don, ed eravamo a Scavartane, venne da noi. Bracchi mi chiamò, mi presentò al colonnello. Nel mettermi la mano sulla spalla, un guanto si impigliò in una stelletta della mia mantellina e si strappò. Ricordo il mio imbarazzo e il suo sorriso. E ora anche lui ci ha lasciati. Andai anche al comando di reggimento per domandare di Marco dalle Nogare. È rimasto congelato, mi dissero, ed è partito per l'Italia. Il tenente che aveva preso il comando della compagnia mi chiese il nome di quelli che meritavano di essere decorati. Diedi i nomi di Antonelli, di Artico, di Cenci, di Moscioni, di Menegolo, di Giuanin, di Tardivel e di qualche altro. Ecco, ora è finita la storia della sacca, ma della sacca soltanto. Tanti giorni poi abbiamo ancora camminato, dall'Ucraina ai confini della Polonia, in Russia bianca. I russi continuavano ad avanzare. Qualche volta si facevano delle lunghe marce anche di notte. Un giorno quasi perdetti le mani per congelamento, perché mi ero aggrappato a un camion ed ero senza guanti. Vi furono ancora tormenti di neve e di freddo. Si camminava reparto per reparto e a gruppetti. Alla sera ci fermavamo nelle isbe per dormire e mangiare. Tante cose ci sarebbero ancora da dire, ma questa è un'altra storia. Un giorno mi accorsi che era arrivata la primavera. Si camminava da tanti giorni. Era il nostro destino camminare. E mi accorsi che la neve sgelava. Che nei paesi attraverso i quali si passava c'erano delle pozzanghere. Il sole scaldava e sentii cantare una calandra, una calandrella che cantava primavera. Desiderai l'erba verde, sdraiarmi sull'erba verde, sentire il vento tra i rami degli abeti e l'acqua tra i sassi. Si era in attesa del treno che ci doveva portare in Italia. Eravamo nella Russia bianca, nei dintorni di Gomel. La nostra compagnia, pochi ormai, era in un villaggio vicino alla foresta. Per arrivarci dovemmo camminare parecchie ore attraverso i campi che sgelavano. Quel luogo era famoso per i partigiani. Nemmeno i tedeschi si fidavano ad andarci. Mandarono noi. Lo starosta del villaggio ci disse che doveva metterci uno o due per famiglia per non gravare sulla popolazione. L'isba dove mi accettarono era spaziosa e pulita e abitata da una famiglia di gente giovane e semplice. Mi preparai in un angolo sotto la finestra la cuccia per dormire. Passai sdraiato su un po' di paglia tutto il tempo che rimasi in quella capanna. Sempre lì, sdraiato per ore e ore a guardare il soffitto. Nel pomeriggio c'erano nell'isba solo una ragazza e un neonato. La ragazza si sedeva vicino alla culla. La culla era appesa al soffitto con delle funi e dondolava come una barca ogni volta che il bambino si muoveva. La ragazza si sedeva lì vicino e per tutto il pomeriggio filava la canapa con il mulinello a pedale. Io guardavo il soffitto e il rumore del mulinello riempiva il mio essere come il rumore di una cascata gigantesca. Qualche volta la osservavo, il sole di marzo che entrava tra le tendine faceva sembrare oro la canapa e la ruota mandava mille bagliori. Ogni tanto il bambino piangeva, allora la ragazza spingeva dolcemente la culla e cantava. Io ascoltavo, non dicevo mai una parola. Qualche pomeriggio venivano le sue amiche delle case vicine, portavano il loro mulinello e filavano con lei. Parlavano tra loro dolcemente, sottovoce, come se avessero timore di disturbarmi. Parlavano armoniosamente tra loro e le ruote dei mulinelli rendevano più dolci le voci. Questa è stata la medicina. Cantavano anche. Erano le loro vecchie canzoni di sempre. Stienka Razin, Natalka Poltavka e i loro antichi motivi di balli. Guardavo per ore e ore il soffitto e ascoltavo. Alla sera mi chiamavano per mangiare con loro. Mangiavamo tutti nel medesimo recipiente con religiosità e raccoglimento. Ritornava la madre, ritornava il padre, ritornava il ragazzo. Solo alla sera ritornavano il padre e il ragazzo, si fermavano poco, ogni tanto guardavano dalla finestra e poi uscivano insieme sino alla sera dopo. Una sera che non vennero, la ragazza pianse. Vennero al mattino. Il bambino dormiva nella culla di legno che dondolava leggermente sospesa al soffitto. Il sole entrava dalla finestra e rendeva la canapa come oro. La ruota del mulinello mandava mille bagliori. Il suo rumore sembrava quello di una cascata e la voce della ragazza era piana e dolce in mezzo a quel rumore. Preblich, Austria, gennaio 1944, Asiago, gennaio 1947. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna.